Dominante. Andrea aveva avuto una giornata difficile, aveva dovuto ammettere di aver lasciato da tempo l'università, una decisione inspiegabile per tutti. Sua nonna, la duchessa, ne fece una tragedia. Per lei Andrea era un parassita, senza arte né parte, che perdeva il suo tempo in frequentazioni dubbie, a cantare per strada come un mendicante, e, riporto le sue parole, con quel ballerino lì, né maschio né femmina, parole della duchessa. Silvia dava segni di insofferenza, voleva dare una svolta alla loro relazione che andava avanti da anni, condita dai ricorrenti tradimenti di Andrea che lei non aveva mai combattuto. Bisognava mettere un punto e decidere cosa fare. Appunto, cosa fare? Andrea si addormentò a fatica, ma alla fine gli occhi si chiusero. Sentiva la risacca. Le onde. Aprì gli occhi e si accorse di essere sdraiato sulla sabbia. Una spiaggia illuminata dalla luna. Davanti a sé il mare. Alle sue spalle il bosco. Si alzò il vento. Passava tra gli alberi creando un suono sordo. Con il vento si alzò anche un misterioso vapore a pelo d'acqua. Sembravano due braccia, o forse due ali. Enormi, impressionanti. Erano là davanti a lui. Lo guardavano. Il vento si fermò. Le strane ali si sbriciolarono cadendo in acqua. Non c'era più il mare. Non c'era più la spiaggia. Non c'era più il bosco. C'erano terra arida, tronchi di alberi bruciati, la carcassa di una balena morta chissà da quanto. Non c'era il mare. C'era poco più di una pozzanghera. Non c'era la luna. C'era un cielo nero, senza stelle. In dormiveglia Andrea si agitò. Gabriella, appoggiato alla pediera del letto, lo sorvegliava, si avvicinò e gli si sedette accanto. Andrea poco dopo si svegliò. Nell'attimo in cui apriva gli occhi intravide qualcuno seduto accanto a lui. Sembrava una figura maschile, vestita da una tunica bianca con una cintura azzurra sulla vita, i capelli che sfioravano le spalle, sembravano lunghi. Era una presenza frastornante che incuteva soggezione, stava appoggiato su un braccio che sormontava le sue gambe, come per impedirgli di muoversi e lo osservava con uno sguardo indefinibile, dolce e severo, sensuale e distaccato. Lo vide solo per un attimo, forse meno di un attimo, perché aprendo gli occhi la figura svanì nel nulla come i suoi sogni, tanto vivi e reali quanto nebulosi. Il principe della luna, disse fra sé André. Aveva riconosciuto mio fratello. André ebbe la percezione di avere qualcosa di importante da fare.